così non sto fatturando. No, non stai fatturando, ma è un po' c***o. Prova ora. E ora va a c***o. Prova la città dove arriva, no, per quando parli. Lo parlo, sale un po'... A due? A due la lancetta. A due? Ma scaldata ancora, allora. Paga. Avanti, Domenichino, dove sei adesso? Ma paga, ma Mario, l'ascolto. Sì che l'ascolto io, ma insomma l'ascolto. Anche io, ma è tutto il micro di cuore. E gaffa gaffa, perché sta passando da sacca, non da saccaggia, no, dall'altro, dal micro di fluorina. Cosa non mi ripeti che stava a parlare? E adesso come ti arriva? Non ti ascolta, dice, prima arriva la mia bomboletta con la camparicchia, se non ti sentirebbe meno. Copiato, ma? Già ho copiato, sì, ma... niente. Capito, io adesso sto usando il K e nulla. Non lo so, magari ho toccato qualcosa, il cursore del coso, delle... Il cursore che devi toccare per regolarlo, vai, cioè, ci siamo capiti. Quello lì deve essere, quando tu lo tocchi deve arrivare a 9 la lancetta. E lo so, però quando voglio mi sale a 9.20 e niente. Capo. Probabilmente ha scaldato la parecchia e sta cominciando ad arrivare, la passa appena appena. Ma Natale è rientrato, sì. Ah, da... Domenico! Ascolto Pio Pio, in questo passaggio ti ho ascoltato proprio piccolino, piccolino. Ah, non è... Aspetta, già. Hola. Ai, mamma. Domenico, mi ascolti ancora? Ora, ora. Mi ascolti ancora, ritieni che sia un tratto, ti auguriamo un buon viaggio, buon rientro. C'è qualcuno che vuole entrare? Chi è? Va? Guido Barbera. Io, ciao. Alessio, sì. Eia. Sentane a radio, buona. Buona, cosa hai fatto? Questo qui è... Come minimo il coso. Come si chiama? Microfono da palla. Dove la Intec? Da, vabbè, non è di Emilia, ma è simile. Ma non mi vede. Sì, l'M400. K. E c'è bene? Sì, qui sto farichetto sulla base. Vede. Come descrivi però questa parica? Una scatola metallica, c'è la presenza della scatola metallica, con la scatola metallica in pratica abbiamo inserito il barattino tutto intero. Abbiamo fatto i buchi per lo smith, come si chiama, il pulsante di manovra, e proprio in incastrato, se io devo andare a ripararlo, devo staccare il pezzo di dietro e scendere il barattino tutto intero. E devo capportarlo. Perché dalla parte di sopra non si può aprire. Ah ecco, si sfila così. Eia, infatti non è che non fa, ci sono due o di qualcosa. Sono usciti, ho messo il pulito tutto. E questo funziona bene. È perfetto. Infatti che c'è il barattino non fare a 2.20, metto una scatola. Va molto bene. Ma cosa c'è anche l'orologio, questa roba qua? No, non è l'orologio, c'è solo due vedete nel limitatore, vedete dei canali di sopra, e basta. 120 canali. Però va bene, tu ti fosci bene. Con chi altro stai facendo adesso? Sempre la solita, la tele della macchina. Stazionale come si dice? 1.4 anni fa, infatti sono andato a Fusaro, ho chiesto quanto mi vuole dalla Bumera, che mi ha detto 30 euro, aiuto. Mi aggiungo 10 e mi dio una BA27L a seconda mano. Oh, c'è una Ringo, te l'ho detto, una Ringo va bene. È uno stilo lungo, già la conosci la Ringo, senza radiare. Sì, ancora che la conosco la Ringo. Ci metto la valigia, ci metto la BA27L qua, e basta. Antonio, come mi ascolti? Cambia basso. Adesso ti sento bene, perfetto, sta amplificando adesso. Con poco è cotto. È sicuro. Ah, il segnale come? Dimmi il segnale com'è. Il segnale è buono, sì, non lo vedi. Io le porto ti arrivo. Brava. 1, 2, 3, 4, 5. 9, 5, in questo speed sto parlando io, adesso te ne parlo. Ci vado bene lo stesso. E così come va? 1, 2, 3, prova, cambio. Così siamo in base. Come, come, fammi sapere. Illuminami. Poi arriva la sovrana, la partenza per appena. Capito. Che poi ancora sollevare la potenza se vuoi. Capito? Guarda ora se va bene. Ehi, già, la radio va benissimo, già va bene. Prova a sollevare il watt adesso. Ma il watt del coso? Stai parlando del Galaxy? Sì, col Galaxy adesso. Ehi, già. Allora va bene, lascialo così, è perfetto. Una cosa la vuoi sapere, ma dimmi, ti ascolto meglio col Galaxy che col Kiwi. Lo so, questo qui è sembra che si dice molto alla mia modulazione. Ehi, questo qua che cos'è? Il Bravo Plus? Capo. Io lo devo buscare, ma se lo busco me lo compro. Non è Bravo Plus quello, quello è Bravo Pro. Ma c'è bene, quello lì qual è? Quello che c'ha il tubicino che si piega, tipo quello della Duccia. No, negativo, questo qui c'ha una corrente tipo quella del telefono, però si abbassa, si inclina sopra il microfono. Capito. Per il microfono ce l'ha uguale Fabio, nel link. E dove l'ho trovato? Su internet. Ehi, sì, 30 euro la gara. Non costa neanche molto, 30 euro te lo prendi. Ma nuovo. E allora? Mi faccio dare il sito, vedete. Infatti la sito la fa più o meno, sì. Penso che la notte, non so, con la mai attiva. Fabio, l'antenna l'ha sistemato. Ci ha aiutato, c'aveva l'antenna di macchina, ci ha aiutato la stampa, mi ha messo un caletto e detto la zio. Esce perfetto, la pezza si ricca, ma rimano quei 10, figurati. Esce anche un po' di radio con quella barattina. E ma quella del tetto non l'ha sistemato? Deve salire, il corpo deve andare a sistemare l'antenna, anche lui da lunedì e sabato lavora, anzi da lunedì e venerdì lavora, sabato no. Il fatto sta che il sabato piove come ci sali sopra. Ecco, già bene. È un casino adesso, d'estate bisogna fare questi lavori. Antonio, guarda ora come sta uscendo. Vai. Guarda, 1, 2, 3, prova. L'uomo è stato a 15 questo Saturnecco, vai. No, è 25 quasi. Tu figurati, se l'antenna lì c'è ancora 9. Mi sembra troppo. Sembra troppo, dimmi così, se di fronte a me mi dirai, è la strada. Prova a attaccare la strappa a Saturnecco. Prima la mettiamo a minimo e poi lo sollevi. E vediamo se quanto avete. Allora, ora l'ho messo dove c'è scritto 20. Sta migliorando o sta peggiorando? C'è va bene, passate la modulazione anche la radio. Gamba gamba. Sono contento. All'ultimo piano di questa civile, da lì si è a posto. Fai scambio con la cacciata. Ma l'assa verde, io sto bene qua io. Sono un metro lontano dal microfono io. Mi fece da perfetto comunque. Le trovavo poco perfetto perché le case qui vicino, quelle di... che hanno costruito da cancellare le sue parenti. Ogni tanto c'è la crepa. Andrà bene meglio. Quindi mi dici che la radio è